Cristian, Marco, ero di Spazzolatta, c'è una rotta su 26 e si sentiva un po' di discreta propagazione, soprattutto in AM, non tanto in FM, e poi banda laterale. Quindi siccome sono di passaggio, se vuoi sul 26 ci sono un paio di persone che stanno modulando la Sassari. Ascolta, come ti sembra questa modulazione? Passabile? È un baracchino che non accendevo dall'inizio del Covid. Passa benissimo, radio 5, pulita, non ho peccata, segnale buono, 9.30. Cappa, sì, sto utilizzando un Intech M150 Plus omologato, omologato con l'aiutino di un M95 preamplificato. Cappa, va bene. Cristian, se vuoi passare su 26, io sono di Spazzolatta e sto facendo altre cose, ok? Dai, buona serata, ci sentiamo alle prossime. Dimitri, allora, ZG M95. E qual è il mio? Lo stesso, ce l'abbiamo in tre mi pare, ce l'ha anche Gianni Rubrofetta. È un microfono onesto, funziona bene, io sono a distanza di 15-20 cm dal mic, dai. Piuttosto la batteria è sempre ambigua, mi capitano sempre batterie che sono ricaricabili, però le ricarichi e subito perdono la carica, mi sa che ce la devo buttare e sostituire. Sì, dipende se rotta dall'apparato, che ne so, dalla barra mobile anche. Aspetta, cosa mi hai detto? Quando lo alzi troppo o quando non lo alzi? Guarda, adesso è a metà, adesso è al massimo. Sì, al massimo già dalla metà compare appena appena, ma quasi non si nota. Al massimo si sente l'innesco molto acuto. Ma te lo fa solo in macchina? Potrebbe essere un rientro di RF. Non so, a casa non lo Eia. E quindi io mi sono autoascoltato, però è ambigua la cosa. Allora, per esempio, ti faccio un esempio, guarda, io ce l'ho al massimo, no? Così sono vicino al mic, 1, 2, 3, così 20 cm, e così sono distante tutto il braccio dal mic. Dimmi se si capisce ancora la modulazione. Sì, si capisce, ma si abbassa. È strano, non amplifica molto. È come che la batteria fosse un po' scesa, e alla fine la cosa migliore è le Duracell, queste batterie ricaricabili da 8.4 e poi ce l'ho da tanti anni queste batterie, secondo me sono già andate. Va bene, ribadisco, Cristian, canale 26, se vuoi continuare a parlare, che qua è vuoto il canale, ci sentiamo nel prossimo. Dai, io sto facendo delle prove, controprove, spolverando apparati, lucidando apparati, eccetera. Ciao, buona serata. Buon divertimento, allora. Aspetta che ti provo un'altra cosa. Questo è il beep del mic. Funziona tutto, dovrebbe essere doppio. E in più quello dell'apparato, vediamo se funziona anche quello. Dovrebbe essere triplo adesso. Vai. Sì, è triplo. Ok, va bene, questo è solo dell'apparato. Brutto, bruttissimo, vabbè, comunque c'è, sembra alla Pomponio quando hanno metto tre. Va bene, ciao Cristian, buona serata. Ci sentiamo. Ciao ciao. Attento Giovanni cambio. Attento Frate Amore, sì. Thank you. sì, ma mi è matto, invece c'avevo le referine chiuse un po'. Cappa di Rosmetro. Ecco, adesso sì, 9.15, 9.20 credo che sia il segnale. Mi ascolti bene tu? Forte e chiaro, 9.20 c'è Radio Super 5. Siamo lì, dai. Ascolta, c'hai qualche radiolinea, qualche 144 MHz, PMR? No, negativo, sono rimasto senza anch'io perché si è bruciato e non ne ho. Devo fare una prova? Perché mi è arrivato un microfonino dalla Cina, dopo un paio di mesi siamo messi a arrivare. E volevo vedere come usciva di radio, se ne vale la pena, ma per quello che l'ho pagato, anche se non dovesse andare bene, è poca la perdita. E volevo provarlo, dai, per curiosità. Cava, no, mi dispiace. Sono rimasto senza perché il mio si è bruciata la batteria e quindi sono rimasto senza. Cos'era? Quelli... ma come si chiama? Boa Feng, quella roba lì? Il gemello era. No, era Boa Feng, era un... non lo ricordo neanche che marca era, comunque... il gemello cinese era, di quella razza lì era. C'erano sono Vaulux, roba del genere, un sacco di nomi, che poi per credere alla fine c'erano tutti uguali, boh. Sì, a fin fine la componentistica è sempre la stessa, sempre allo stesso posto escono. Non c'è nessuno? Guarda, la verità sto facendo un po' di ascolto, un po' girovagando qua e là, e non te lo so dire. Adesso io ho provato qua a fare due fischi e si è apparso tu. Vabbè, fuori strada niente? No, strada, non ho più, l'ho venduto. Non so, infatti pensavo che avessi trovato qualcos'altro, no? Niente, beh, hai abbandonato? Sì, alla fin fine sì, guarda. Per adesso sì, poi è tutto bloccato, adesso vediamo già cosa si organizza prossimamente. Era una bella bestia quel fuori strada, caspita. Dov'è? Qui a Sassari è rimasto? No, è rimasto sempre in Sardegna, però nelle parti di Oristano, adesso mi ricordo neanche più il paese, si è preso un ragazzo, però non so neanche quanto lo stia utilizzando o che cosa stia facendo. Pazienza, un peccato, dai. Ti manca un po'? A mancare già manca, però lasciarlo lì fermo e usatelo qui a fare due giri alla fin fine è stato migliorarlo, dai, se no sarebbe stato fermo e sarebbe, insomma, rovinato. Sì, un capitale perso, no, perché quelli tengono il prezzo, anche dopo tanti anni mi accorgo che hanno sempre un'ottima valutazione. E si conferma. Se vai a comprare adesso guarda, meno di 20.000 uno recente non lo trovi. Al di sotto 10 o 7, insomma, una cifra proprio abbordabile. Per me nel Defender trovi Mondezza. Mondezza nello senso della parola. Sì. Sono come i Suzuchini, sono degli assegni circolari, sono. Sì, sono assegni circolari, soltanto che poi tu fai quel prezzo, adesso 20.000, e lo trovi perfetto, trovi quello che se non compra, dice perché devo metterlo adesso a 10.000 quando ancora è venuto a 20, quindi magari potrei farlo, magari ce l'ho io, potrei fare 20, lo faccio a 21 perché è più accessoriato di quello che hai venduto tu, capito? E poi sempre un po' che se non compra lo si trova. Tu c'hai dei blocchi pneumatici, giusto? Sì. Sì, io avevo i blocchi RB col compressore, soltanto che stavano iniziando a rompere le scatole perché al momento del bisogno non si inserivano mai. E quindi dovevi stare lì a trovare il punto di innesto ed era un casino. Mi ricordo che a volte aveva problemi di innesto. E poi sono macchine che ha bisogno di essere, come dici tu, utilizzate. Anche la mia è un po' di tempo che non la sto utilizzando, sto lavorando, facendo turni strani, di giorno finisco alle 5 di sera e già non c'è più tempo di fare niente, arrivi a casa che sono già le 6 ed è buio. Quando fai la notte, l'indomani non hai voglia di fare nulla. Purtroppo è così. Purtroppo è così e ti ho veramente ragione. voi se non trovi gente o compagnia per fare escursioni o cose del genere, io mi accendo. Io più che altro, oltre diciamo a qualche uscita così sporadica, facevo lo utilizzo per quando andiamo a pescare, che facciamo strada brutta, lì la costa verso che va dall'Argentiera verso Capo Falcone, quando noi battiamo quella costa lì, fare Saraghi quando c'è mareggiata. Ridiezzate il breco, buonasera. Sì, non si solamente in quelle circostanze, e poi vai a giocare in mezzo al fango quando insomma è pieno di pioggia e via dicendo, poi per il resto tu usi tipo macchina normale. Avanti il becco! Vabbè, non entra. Non capisco, sta parlando, ma prima ho sentito Brecco, la sta facendo più forte, adesso si è abbassato il radio, non so cosa è successo. Tu lo senti che sta parlando sotto? Sì, sento che parla, ma anch'io ho un po' di QRM, ma Santiago 1 e non riesce neanche a passare il QRM. All'inizio anch'io sentivo un po' di radio, adesso invece se mi ascolti ti stiamo perdendo. Allora, 12 watt, 12 watt, mi copiate, guardate il segnale, c'ho il segnale, grazie. Mi sta facendo partire l'antenna nuova, dai, fatemi togliere. Ho capito, controllate il segnale, ma il segnale è 7, oscillante 8, però la radio è bassa. Ehi, Daniele copiato, vai Franco, e prendi tu. Ah, te sta chiamando, ce l'hai copiato. Sì, ho capito, forse riprendi tu, però purtroppo non riesco a tirarlo fuori. Ci manca una spinta, qualche aiutino in più. Ehi, Daniele, a dopo, dai, figurando, ciao, a dopo, ciao, sei qui. Marco, ma tu sei? Ehi, paramobile, c'è un'antenna che mi sta dando fuori di paramobile, sto tentando di installarla, calma. Ah, ok, dai, quando sei pronto batti un colpo che noi ci siamo. Marco Condor era. Non l'avrei mai detto, proprio Santiago 0,5, il QRM c'è la 1, non ti ascolto, ho capito che c'è problemi di antenna, così? Cappa, no, problemi di antenna, stanno premendo l'antenna e altro non ho capito, ho riconosciuto la timbrica e la voce. Ehi, perché c'è comunque il segnale, il segnale adesso sei 6, 7, 8, a un tratto sei arrivato, però di radio sei bassissimo, Marco, io ti ascolto ma faccio fatica. Gamba ricevuta, dopo, ciao. Ehi Marco, a dopo, dai, risolvi al più presto così vediamo se tutto funge. Credo che non stia parlando. Caspita, qui mi è crollato proprio, che in genere mi arriva 9.10, 9.15. Adesso proprio un segnale di neanche mezzo Santiago. Cosa cavolo gli hanno fatto? Gli hanno messo qualche il cavo in corto, gli hanno messo. Era dalla barra mobile e altro non ho copiato. Sicuramente avrà la problemi all'antenna, capito? No, il segnale c'è, la radio no. Ah beh, sei dalla barra mobile, allora no, ero preoccupato, se sei da casa è un grosso problema, qualcuno gli ha piantato un chiodo nel cavo, ho detto, gli ha messo in corto, invece no, se è dalla macchina potrebbe essere da qualsiasi parte, dai, allora va bene, dai. Uno spavento in meno. Gaba, oppure sembrava qualche dipolo auto sperimentale, dai, vai, se la produce qualche prova, vedi cosa stava succedendo, e invece no, era la barra mobile, e va bene. Mi sembra la persona ha accennato che voleva, come si dice, piazzare tutto in macchina, anch'io ho messo l'antenna dietro con una staffa nella ruota di scorta, non è il massimo, non è come averla sulla cappotta, però pazienza, dai, mi faccio ascoltare lo stesso. L'importante è quello. Io come ti sto arrivando dalle tue coordinate, che ho cambiato antenna, non ce l'ho più quella L25 ottavi, la sono finita un quarto d'onda adesso. Sì, guarda, sul più del 30, quindi sei 9.20 pieno. Sempre lo stesso segnale da prima, cioè, insomma, le ultime volte ci siamo sentiti adesso, non so se te lo ricordi. Comunque mi arrivavi bene anche prima, non ricordo il punto esatto dove si fermasse l'ago, però eri sempre forte. K. Io poco fa sto ascoltando i 40 metri con questo in banda laterale, la verità ero dalle parti di Perugia, mi stavano arrivando e mi stavo ascoltando, insomma, discretamente, non benissimo, ma riuscivo a capirli. Che antenna è adesso? Stai usando un'antenna? Adesso sto usando la, scusa un secondo, ci sono gli spam. Una Grand Plain. Ah, una Grand Plain. Hai messo che, però non è... Ma è multibanda o solo per la 27? No, questa è per la 27, capito? 27 e purtroppo questa nasce con 4 radiali che sono alti quanto l'antenna e sono finito a lasciarne a metterne solo 3 perché poi c'è la mantovana e non riesco a farla scavalcare, capito? Sono radiali da 2,75, la classica Grand Plain grande. Esatto, esatto, che... sì, che i radiali sono alti quanto l'antenna, si può dire. Sì, sì, l'ho avuta io, 4 radiali da 2,75. Ottima antenna, la mia prima antenna se non sbaglio, sì, la mia prima antenna, dopo me l'avevo messo la mantova 1. È che fa un po' di PWI, disturba parecchio, si usi potenze, disturba parecchio. Ma la verità si ricca, io almeno, ma forse con l'altro segnale analogico facciamo un po' di TVI. Però io qui almeno a casa l'ho provata anche con potenza e con tutto ed è perfetta. Poi non so se gli altri hanno problemi, però adesso non la bussa con nessuno e quindi non te lo so dire cosa stia combinando. E beh, dove sei Marco? Cavolo, non riesco a capire. C'è poca radio, c'è il basso di radio sicuramente. Ma Daniele non mi scusa. Daniele, lo ascolti? Fai un passaggio Marco, che qua stavo... mi stavano chiamando, secondo, fai? Daniele, segnale, sì, sta iniziando a piovere, devo anche ritirare tutto, vabbè. Il segnale è 7 Marco, però la radio è bassissima No, no, il segnale è resta, il segnale grosso modo è confermi. Non lo capiscono Marco, cosa ha detto? Non ho capito il segnale come prima, però non ho capito la zona che sta mutuando, in che zona sia. Mi sembra che il primo passaggio è detto sempre sotto casa, confermi Marco? Un attimo di bianco che risponde al telefono. Eia, Daniele, dai, non fa, non fa, sta iniziando a piovere. Chiudo, quelli sì, ciao. Eia Marco, dai, se riprendi a casa noi siamo qua, dai. Buon QRT, a dopo. Eccomi, ci sei? Sì Marco, scusa, mi sono allontanato un attimino e sono salito adesso in postazione, eccine. No, no, Franco sono, Marco, non so se c'è ancora, Marco? Oi Franco, scusa, caro, ho fatto 2 marchi. 2 marchi non facciamo un dollaro. Io quei nomi qua sono negato, ma sei negato a dir poco. Io sono precedente, guarda, io ho un'agendina qua davanti, mi scrivo tutto, sennò guai, faccio un casino nero. Io lo stesso qua, io lo stesso. Perché se sono nomi che sento spesso e pronuncio spesso, allora sì. Ma se invece, come nel tuo caso, che sento pochissimo, allora mi ingarbuglio. No, io qualsiasi nome, se non lo scrivo mi dimentico tutto. Ma anche qualsiasi cosa a casa, appuntamenti, roba così, metto sempre suonerie, sveglie, con i posti attaccati al frigo, in macchina, per tutto. Vabbè, dai, capita. Va bene, ma sta arrivando la pioggia, così è. Mi sa che Marco ha detto così, aspetta che guardo, la finestra che è già chiusa. Attenzione, buonasera, cambio, che c'è in ascolto? Buonasera, avanti, Daniele da questa parte insieme a Franco. Ciao Daniele, ciao Franco, piove o non piove, sì o no? Qui piove. A dove Daniele, dov'è che sta piovendo? Chi è che è entrato che non ho capito, che ero un po' distratto? Sto levando la tapparella, chi è entrato da Sorso? Giovanni. Giovanni, proprio Sorso, città, paese diciamo? No, terzo pettine. E pettini? Terzo pettine. Ah, adesso ho capito bene, terzo pettine. c'è anche un po' di eco, se non sbaglio, un po' di reverbero. Ma non me lo fare togliere, qualcuno mi dice che va bene, sto sempre a regolarlo, com'è? No, non dà fastidio, però si sente appena appena, non dà fastidio. Qualcuno lo usa a manetta, a volte già sono mezzo sordo, perché non si capisco nulla. Ti ascolto non benissimo, il segnale non è molto alto, però ti ascolto bene. Guarda, neanche a me mi piace l'eco. Allora qua sei 9.5 radio 5, va bene. Allora va bene, dov'è l'amico che mi ha detto che il segnale non era molto bello? Io sono qui nel Monte Basso e la mia antenna, diciamo, non è sul tetto, è davanti alla finestra, e quindi perdo molto in ricezione. Allora non mi devo preoccupare, dai, stavo già iniziando a preoccuparmi. Bene, facendo i riscontri mi stanno dicendo che questa volta esco bene, sono stato 2 mesi con un filo di palo di luce attaccato a un palo di recinzione e poi oltre 1 mese con un dipolo. No, io per quella parte praticamente la mia antenna è più libera, diciamo, tra virgolette, perché vede un po' la parte di Sassari alta, poi verso Porto Torres, Sorso, Alghero, lì è proprio è cieca proprio, non vede niente. A me mi sta arrivando bello di radio e bello anche di segnale, ti ascolto benissimo. Io sto usando qualche vitamina in più, dai. Vabbè, servono anche quelle, servono, altrimenti in certi punti non ci arrivi. Non so con quanti watt stai uscendo tu. Non ti metto a ridere. Allora, c'ho un Midland 7001. Praticamente è un 48, però è più grande. Basta, non c'ho altro. Allora va bene, dai. Allora, prova a attaccare e mi dirai quanto scendo. Allora, guarda quanto è il segnale adesso e poi ti faccio un passaggio senza niente. Così è senza niente. Molto cambia. Abbastanza, direi abbastanza. Cambia moltissimo, cambia. Non ho capito. Abbastanza, cambia moltissimo, facevo fatica anche a sentirti. Quindi più o meno capirai come ti ascolto io adesso. Qui un segnale, sono 3.5-4, però ho un po' di QRM che mi sta un po' disturbando. Sicuramente qui vi a fianco hanno le pompe di calore attaccate e sono proprio a un palmo dall'antenna, capito? Qua sei 9.20 adesso, fra. Così con la massima potenza? Cappa di rosmetro. E invece così a minimo. 6.9 compiti 9.10. Così è, diciamo, lo guardo, è meno di 4 watt, mi sta segnando il watt, metro d'acqua. L'ho abbassato di potenza questo per pilotare meglio la scarpa, dai. Cappa. Aspetta, faccio una prova con l'amico di Trattamona, con l'aiutino, cosa dice, cambio radio, aspetta. Daniele. Oh, Claudio. Oh, ciao, Fra. Franco, tu hai radio, per favore, c'è la mia radio. Sì, è bella corposa. È che c'è un bel QRM, cazzo, te lo porti un po' appresso perché oggi è forte. Stanno pompando qui le pompe di calore, mi disturbano un sacco. Ma appena sento a Giovanni. Sta cambiando radio, Daniele. Vabbè, no, mi interessava solo se sto usando un altro microfono, con un altro radio, c'era più o meno come la mia, c'è sempre quella. Direi di sì, guarda, io direi di sì, per me va bene. Poi vediamo se Daniele ha meno QRM di me. Io invece volevo provare la radiolina, la piccolina, che mi è arrivato un microfono dalla Cina, la volevo provare su un PMR, boh. Tu lo sai qual è la frequenza PMR, canale 7. Dai, se ce l'hai a disposizione faccio la prova. Sì. Vabbè, mi sono spostato con la radio grande. Allora, canale 7, aspettiamo, Guarda adesso, com'è? Già si è aumentato, comunque si ascoltavo bene anche prima, Qui il segnale è aumentato un po', però la radio tutto quanto ti capivo benissimo anche prima. Cavalaba, e adesso la dice? Adesso stai aumentando di pelini, stai aumentando, si vede che hai toccato qualcosa, è aumentato un po'. Qua sono la massima potenza, Va bene. Ciao Daniele, buonasera. Ottima la mia sempre, bella corposa, forte, troppo forte. sentivo bene, c'è la radio la mia col K, non di no, vabbè, sono qua. Ma di guarda bene, c'è la mia, basta che ti lascio, vi saluto, vi abbraccio. Franco, se stai parlando io non ti sento. Sì, ti ho rilanciato, ma vuol dire non arrivo lì, boh. No, non arrivi. Com'è Daniele, quindi a posto? Sì, conferma qua, sempre la tua. Forte e chiaro qua. È forte, lo devo aumentare, va bene. Aspetta, c'è una portata sotto, non so chi sia. No, va bene così, qua. Va bene, non tocca se. Va bene, ok. Ciao a tutti, buona serata. Ciao anche Giovanni, arrivi fortissimo qua Giovanni, complimenti. Ciao Franco, ciao Daniele, ciao. Grazie Claudio, buona serata anche a te, dai. Ehi a Claudio, dopo se coincide, dai. Lasciamo qua. Riprendi fra. Quindi non mi sente? Aspetta, provo a richiamarlo. Mi senti? No, non arrivi. Fra, non prende, prima arrivavo, quello ti dico. Va bene, dai. Di nuovo un abbraccio a tutti, Cla. Alle prossime. Avanti, Giovanni. Ora se tu mi senti a me. Sì, basso, ma ti sento. Allora, è un problema tuo che non riesci a salire qua, dai. Io magari in discesa ce la faccio. Ciao a tutti, ci sentiamo. Poi, magari... Tu stai usando l'antenna grande, fuori, eterna? Sì, davvero. Figurati, non mi ascolti neanche con quella, paziente, vuol dire che non va bene questo antennino, là. Avanti, Giovanni. Grazie del controllo, Claudio. Buon fine serata e buono... Grazie Giovanni, arrivi fortissimo, stai arrivando più forte addirittura di Daniele, non di Franco perché è più vicino, ma Daniele lo supera alla grande, quindi lascia tutto così, non toccare niente. Ciao, buona serata a tutti. Ciao Claudio, ciao. Adesso hai migliorato anche qua Giovanni, cosa hai fatto? Ma non sto facendo niente, ho cambiato soltanto il microfono all'altro baracchino, adesso c'ho un Elbex. Ma sembra che ti ascolti meglio, non lo so. Con questa sensazione che hai migliorato qualcosa. Questo me l'hanno provato per farlo camminare un po' perché sicuramente era sempre più tanto dentro qualche cassetto e dunque mi ha detto te usatelo un po'. Mi stava molto bene, mi stanno dicendo che esce bene. E bisogna farle andare questi apparecchi. Sono guai. Anzi, se mi ricordate che ne accendo un vecchio valvolare, dai. Vai, già sono qua, vai. Non è collegato all'antenna, però almeno a scaldargli le valvole un po'. Vai, se lo vuoi anche collegare, sono qua. No, lascio, l'importante è scaldarlo un po', far caricare un po' i condensatori prima che si rovinino. È roba degli anni 60, 70, non lo so. È un GTX Gemitronic 40 canali a valvole, dell'anno 3. Scusa, però sono sempre belli, ma perché non metterlo in funzione, perché sentiamo un pochino. Adesso vai, lo facciamo scaldare, poi devo cercare il microfono, perché questo non va bene lì. Anche se ha 4 poli, però c'ha qualche inversione da qualche parte, quindi ci vuole il suo microfono, ci vuole. Qua c'è un 7001 che c'ha a fianco, a me piace tantissimo, e anche questo sarà degli anni 70, 80, credo. Anche questo qua che sto usando adesso è anni 80, credo che sia, quindi qualche anno ce l'hanno. Questo è un coso, un Alan 48, solo che è più grande. Vediamo un po' se c'è... Se c'è Daniele. Io intanto cerco il microfono, eh. Vai, tranquillo. Allora, mi senti? Forse chiaro. Vai, prova, continua, il lavoro è... Adesso ho sempre però l'aiutino attaccato, La voce è molto più chiara, Questo è un microfono, non è neanche il suo, è un Pace, un microfono della Pace, riparato un po' alla bella meglio. Mi sembra che dà un po' di alternata, da. No, continuativa, chiara e pulita la voce, bella. E quindi funziona ancora. Mi si è piegato, diciamo, il digitale, mi è caduto il colpo, ho detto, va, spera che non siano partite le valvole, ho detto. Stai riuscendo bene, fra. Ehi, ancora è freddo però, quasi, forse conviene farlo scaldare un po'. Chiara. Allora, da problemi, qualche pomello che c'è da stringere, che gira vuoto. Di frequenza sono centrato? Sì, io ti sento bene. Perché devo usarlo tutto a destra il cursore, in base a come ascolto a voi, quindi a voi mi centro tutto a destra. Sarà da regolare anche quello, dai. Tutto un po' fuori. lavori. Ma quello ci vuole un frequenzimetro professionale per farlo. Ci vuole anche gente che lo sappia fare. Dentro è un macello questo qua, non è un baracchino. C'è di tutto e di più dentro. Peserà 15 dei chili. Ecco. Come? Ho detto, che apparato è? È un Gemetronic GTX 5000, 40 canali CB transceiver dell'anno 3. Vada, io rimango in ascolto qua che sto facendo cosa. Attento, Natalino, attento. Mi ascolti in cambio. Natalino, vieni, ti ha chiamato Giovo. Rimango in ascolto, sto facendo cosa? Mi ero spostato. Sì che ti ho sentito, Giova, però devo rimanere in ascolto che sto facendo cosa. È importante che mi spieghi, fai pure, stai tranquillo. Dai, adesso lo stacco e riattacco l'altro, dai. Faccio la stessa cosa anch'io, no? Fa troppo casino questo qua. Oh, questo è un barrasone, poi scalda. È un bel silenzioso però, mentre questo il mio sta facendo un bel casino, lo stacco anch'io. Sono curioso, sono contento che funzioni. Sicuramente ce lo stavano vendendo insieme a un aspirapolvere in Bari. E l'ho visto su Facebook, e tasca, ma lo dai, c'ho l'apparecchio, meno male me l'ha dato. Dico, guarda che funziona, mi ha provato la portante senza antenna, ha detto non schiacciare nulla che non. Quello che lo bruci. L'ho smontato, che lì si faceva un po' di scarica, no? L'ho smontato tutto, le valvole, ho pulito un po' di spray per contatti, ho ripetato tutto, ha fatto qualche scarica all'inizio e poi si è stabilizzato e sta andando alla grande, diciamo. Va alla grande, sì, te lo posso confermare, ti sento bello, forte, pulito. Forte chiaro, vieni avanti, qui sì, cambio. Sempre Daniele. Forte chiaro Daniele, hai cambiato? Tappa dai. Stiamo provando qua a far giallo questa caffettiera. Forte chiaro. Ma c'è qualcuno che si è spostato il canale? Wow. No, sono entrato io, c'è l'altro apparecchio acceso, ha fatto rientro. Tappa. Va bene ragazzi, dai. Io vi lascio che vado a fare due commissioni veloci. E ce la riascoltiamo dopo se coincide, dai. Tappa. Ciao, allora Daniele, alla prossima. Anch'io mi controllo un po' di roba stessa che c'è qua, prima che si bagni me la ritiro, dai. Un salutone a te, un salutone anche a Giovanni e a risentirci alle prossimine. Ok, ciao, un abbraccio a tutti e due. Ciao, ragazzi, aspetta, facendo un casino. Dai, a dopo, buon proseguimento e buon tutto. Saluto anche a Natalino, se è all'ascolto, là, e a Claudio. Ciao, ciao. Ciao a tutti e due, ciao. Bene, devi spostarlo dal muro quell'antenna, perché sennò non va bene. KK, è vero, è più di un metro adesso dal muro, eh. Quando ti arrivo come Santiago e radio? Sei quasi 9:20, sì, dai. KK, dai, cioè, sta iniziando ad andare bene. Va bene, allora ci sentiamo più tardi se entri. Ciao, grazie Antonio, alle prossimine. Ciao. Ciao. Dove poi hola e avanti sul canale 10. Vado su eBay, la prima cosa che trovo me la prendo, 500 euro, 1500, 2000 euro, quello che è. Come la piazza a casa me lo attacco in culo, perché bisogna saperlo usare. Una scelta prenditi. Ehi, me ne taglio il codo, ciao Marco. Una scelta. Ti vuoi lasciare a tutti. Buonasera Marco, l'accenda ce l'ho. Sai, sono entrato a salutare che sto mangiando. Prima le macchine, voi non c'eravate, stavo tarando un antennino per terze persone, non per me. Però il risultato è elettricamente lungo, quindi bisogna tagliare di pochi millimetri, perché sono antenne corte e lì basta che vai oltre di un millimetro e sballi tutto. Deve essere millimetrica la taratura. Ehi, riprendi i bomboni, quelle ti per me, dai, sono solo in ascolto, ciao a tutti. Su, quanto mi arrivi forte, Marco? Come tu? Molto forte. E pensa che questo baracchino c'ha 3 watt, miseri, non è il 3009, è un altro, 3 watt, ne avrà, se no, 3,2 modulati, poi io ho il filtro anti-TVI, quindi ne usciranno 2 di watt, 2 watt ci avrò utili, 2 watt, meno del solito, di solito ne ho 3, e vabbè, siamo vicini, già lo sai, no? Va bene, signori, buona serata, ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, me lo puoi dare un rapporto di segnale, veloce, veloce? Anto, qua segna 9, ma è a LED, cioè o segna 9 o 9.30 quando sei tu. Non è preciso, non è assolutamente affidabile. Se 9.30 quasi 9. È forte. Attenzione, canale 10, cambio. Buonasera a tutti, un controllo radio per favore, me lo date che sto provando un microfono. 9.25 radio 5 a bomba. Cava, ti ringrazio, tu. Resto qua, ma un attimino, dai, che c'è un amico, poi rientro. Saluto tutti cordialmente, grazie. Ciao, sei un bel porto qua. Ciao Gianni, a dopo, 9.20 qua. Va bene, non mi interessava più la radio, che stavo piazzando un microfono, dai. 5, tranquillo, perfetto. Cava, meglio così, dai. Sono contento per me. Dai, riprendete e poi rientro anch'io, dai. No, comunque qua sei a bomba, già va bene. Anto, ciao Gianni. Ehi Gianni, farà. Sono io, sto uscendo, Anto. Io sto uscendo. Il capo, sei fortissimo qua, stai arrivando. E allora il segnale è col 3009, è tipo tra 9.10 e 9.15. Capito, il segnale reale, che l'altro non segna, cioè l'altro segna 9 a 9.30, non c'ha via di mezzo, c'ha due LED tra 9 a 9.30, quindi scommetto che stai usando la bazooka. Io? Ma così, sto usando la Ringo, ma non da casa. Ah, tu sei al QTH Trabacco, ho capito, perché ancora non avevo capito quanto arrivavi, ed è, diciamo 9.15, dai. Non è poco, no, per avere, è un bel, per essere molto più lontano di casa, cioè tanto, per avere un cicatuso qua è un bel, ma qua comunque mi arrivi forte, un bel, mi arrivi molto forte. Ehi, vabbè, già va. Sempre 3 watt, insomma. Beh, mi si brucia la roba sul fuoco. Ciao a tutti, guariti, ciao. Ciao Marco, ciao. Ciao Marco, buon pranzo, vieni. Ok. Già va bene. Siamo solamente noi, ci siamo a quanto sembra. Oh Antone, ci sentiamo dopo a casa, dai, che io devo fare roba, ok? Ehi, fai pure, già sono all'ascolto, ciao. C'è più nessuno, Gambi? Hola? Ehi, posso alzare? Hola, attenzione, canale 10, Gambi. Beh, sono spariti tutti. Io sto provando un microfono con un amico, stiamo piazzando un microfono su una radio e volevo sapere come andava, vi ha detto anche che va bene. Ottimo, direi, ottimo, modulazione chiara, limpida, nessuna timbrica lonfia, tipo buono. Capa, ti ringrazio, dai. Stavo facendo un collegamento di un microfono che è autocostruito, va bene così allora. Un attimino solo che c'è un amico e lo accompagno e poi rientro. Io sto mangiando già, ho sentito chiamarvi e non rispondeva nessuno, ho risposto io. Ciao anche l'amico del produttore, dai, chiudo. Comunque il mic va bene, benissimo. Io sono entrato, va. Tutti andati ve ne siete. Chi è io? Che può che sia? Gianni. Lo vuoi, pomponi. Ah, meno male. Anche se mi sto mangiando un cracker. Magna chi sarà? Sto appena pranzando. Cosa, a dieta? No. Ero con Gian Piero tutto quanto il giorno. E ho dovuto saltare anche il pranzo, figurati. Poi quelli che avevano portato a fare una bella passeggiata non sono venuti. E non gli ho mangiato un cazzo, sto mangiando adesso. Ah, ma che sto mangiando cracker a pranzo, non ne mangio più pane, mi quasi alza la glicemia. Invece mangio i cracker con gli integrali e non mi sale. Ma io ho cracker salati. No, integrali. Va bene. Tu mangi gli integrali, io mangio quelli salati, non più a te. Tanto giorno. Ho comprato le fragole. E non te lo dico niente qua. Un giorno ne ho mangiato una, di domani mattina non ho mangiato ma una, dopo domani tutte muffitte, quelle di ospite. Io invece l'altro giorno ho comprato un hipster e ne ho mangiato uno crudo, tanto me l'avessi fatto, venuta avanti in pancia, tutte le macchie delle mani, e è successo, sono andato a guardare il hipster, ho tutti a piappini bianchi. Sì, che sono andati, me l'ho riportato indietro, già me li ha cambiati, però sono stato male, ma ha fatto accusi pure. E ti è andata bene? Uno mi ne ho mangiato lì, uno ne ho mangiato, però sentivo che era strano, poi era bucciuccioso. Penso che è strano, un sapore strano. L'ho ingoiato, ma non so manco io perché. Poi ho controllato tutti a puntini bianchi. Era stata confezionata male la confezione, ma erano una serie che erano tutti così, li ha controllati tutti, li ha tutti ritirati. E già lo che era già, se no passa così di passa. E non erano scaduti, scadevano fra 4 mesi. Vuol dire che erano confezionati male, senz'altro, magari li hanno tolti, rimessi, tolti, capito? È la data di confezionamento, Ali, la data di confezionamento, quello lì. Ho capito. Cioè non la data, il confezionamento sbagliato. È passata aria probabilmente, succede così, è entrata la muffa, si stava formando la muffa all'interno. Poi li spaccavi e c'era i puntini bianchi anche all'interno. E allora era un po' più messi male forte. Ma io peso le fragole. Erano belle, la verità. Un giorno e mezzo sono durate. Hai capito? Anche le banane quando sono la stessa identica cosa, quelle dello spimi. Quelle di qua. Le prendi, sono verdi come il coso perché le bagnano, le mettono al buio e le bagnano, capito? Come le fai toccare la luce in casa, immediatamente si cuociono da sole. Bisogna stare un po' attenti, infatti bisogna controllarli prima di mangiare le cose, bisogna guardarli. Io avevo fame, ma ne sono preso uno con i cracker, poi la giumagnata e dopo sono stato male. Bisogna controllarli, non è mai troppo essere pignoli. Con mangiare non si scherza, no? Una volta mi è successo con le uova, ho messo il primo uovo a fare il fritto. Poi metto il secondo uovo, il primo non c'è valore, metto il secondo un fiago, c'era il pulcino formato dentro, una puzza di cadavere, ragazzi. No, a me mi è capitato quelle che vende lo spin, quel pacco da 10. Quando vai a pigliare, a parte sono incollate con le uova, poi le butti giù e sono tutte guaste. Non so che diavolo di gallina ci sia, di lì, o gallo, cosa cazzo ne so. Fatto sta che non l'ho più preso. Ce l'ho buttate in mezzo ai pisilli, cazzo ho detto che schifo queste uova che so. Boh. Ho preso, ci ho buttato tutto, pisilli e uova. Ma quel giorno dove poi piglio le uova da sé, in cartone, sono più grosse, e sarebbero anche in culo, quelle da 10. No, ma tu le devi portare indietro, quando è così non ce le buttare, le devi portare indietro, e se non te le cambia, basta chiamare la finanza, lo vedi cosa gli va, a me una volta mi è successo con le mozzarelle, no? Poi le ho riportate indietro il commesso mi ha detto che lui non lo poteva cambiare perché c'era la collega e lui era entrato nel momento, quindi non poteva cambiare. Mi ha detto sì, ma tu lavori qua, se vedi che una cosa non va bene me la devi cambiare, niente da fare, questo è da MD, non si sa fare i nomi. Sono andato dal direttore e ha chiamato, aspetti che lo chiamo io, che ti ho fatto rivolto davanti a me, come ti sei permesso di trattare un cliente così? Tu va a finire che salti il posto, non è che tu ti colui. Che lo credo. A me mi era capitato alle spalle, tanto tempo fa, mi aveva dato un pollo a questo. Cazzo, ho apro questo dove di coso, cazzo. Ho preso e sono tornato indietro, ho detto, oh, ascolta, questo pollo, gli ho detto, è guasto. No, il pollo non c'ha niente. Dove l'hai messo? In ghiacciaia? Dove lo detto, dove cazzo me lo mettevo? Detto, in culo me lo mettevo il pollo, ho detto, scusa, L'ho messo in ghiacciaia, ho detto, stamattina, e stasera a cazzo lo devo cucinare, ho detto, mangialo come il carbone, ma stai scherzando, ho detto, guarda, se cambiamelo, se lo detto sono affari tuoi. E adesso lo aspetta, chiamo il direttore e parliamo con lui, parla con che cazzo ti piace, gli ho detto. Io questo pollo così non lo mangio, sotto mangi tu, te lo porti a casa tua, te lo detto, questi soldi, te lo regalo io, te lo mangi tu, detto, quando puoi vai al pronto soccorso, sono affari tuoi, gli ho detto, cosa me ne frega a me. Allora penso, oh c'è ragione, su 100 l'odore di puto è fatto, allora penso me l'ha cambiato. E da quel giorno è diventato amico, in pratica, andò con la nuova di Alve Spada. Ciao Antonemi, oggi ce l'ho fresca la roba mia, mi guarda, prendi questo, prendi quest'altro. Ma lo sai perché Antonio? Perché fanno una cosa ai signori di macellaio? Tolgono la scadenza e mettono la scadenza nuova sulla carne che è già scaduta, capito? E quindi è per quello che fa quel lavoro lì. Tu ti pidi la gara e la c'ha tutto lei. Ma io già lo conosco il pollo, cazzo, quando è messo male. È lo provvigiano di colore. È come se si avesse la cervosi epatica fuori. Si fa anche il rosso, si fa. Sì, ma poi si sente subito l'odore, come ti rabbia rubiato. Sì, loro lo riconfezionano, quando è scaduto lo riconfezionano, rimettono la data da oggi, per dire che l'hanno riconfezionato e lo fanno durare un altro mese, per dire, capito? Sì, vabbè, quello lo fanno perché gli passano l'acqua lì e lo lavano dentro, capito? Per togliere l'odore, il sangue è marcio. Capito? Quindi sembra fresco. Ma non attacca con me, perché me la colgo subito. Beh, certo che la denuncia, ma un sacco di gente lo fa, purtroppo, specialmente quando fanno le promozioni, quelle sono in pratica roba in scadenza, hai capito? E poi è capitato a me, tanto tempo fa, andavo lì alla Caritas in via San Donato e ti davano la roba scaduta da due settimane, da un mese e mezzo, hai capito? E loro si pigliavano la buona, quelli i preti e le suore, quelli che ci sono di lì. No, ciao Mario, rimani se vuoi rimanere, non c'è problema. E il problema è questo, che la riconfezionano, si sa perché io li ho anche visti, quindi lo so che la riconfezionano. Una volta sono andato a comprare in un supermercato e ho visto che stavano riconfezionando la carne, e ho detto scusa, ma quella lì perché la sta riconfezionando? Perché si è rotta la confezione e c'era l'altra confezione a fianco e stavano riconfezionando anche altri pizzi, capito? Quindi probabilmente, ma quasi sicuramente l'avevano riconfezionata, perché si sanno questi trucchi, per chi ha lavorato in grossi supermercati o roba del genere, questi trucchi li conosce. E allora io sono Gianino Piorum e l'altro è Antonello Pomponi. Sì, lo so che è così, io ho lavorato 38 anni in supermercati, quindi conosco le cose come sono. Infatti noi queste cose non le facevamo, però ci sono le persone che lo fanno. diciamo che se tu la confezioni magari sta, manca ancora una settimana per la scadenza, va ancora bene, però poi finita quella settimana la devi togliere, se no fa male. Io l'altro giorno sono stato male per un booster, proprio per un booster. Ho comprato dei booster perché a me piacciono tremendamente, malgrado sappia che ti fanno da scarti di carne eccetera eccetera, a me piacciono fatti arrosto con le cipolle e col ketchup, mi piacciono da morire, ma ne ho mangiato uno crudo perché hanno un languore e me l'avessi fatto mal di pancia, mi si sono formate delle chiazze bianche come quando tu tocchi, cosa ti posso dire, un acido oppure l'acqua ossigenata che ti fa con le macchie bianche, ce l'hai presente? Così avevo tutta la mano, ho pensato se avessi toccato qualche detersivo e niente, e comincia questo prurito, mal di pancia, controllo il booster, ne apro uno tutto a puntini bianchi dentro e gliel'ho portato subito al supermercato, ma me l'ha cambiato immediatamente, solo che sono stato male, mi ha fatto la disinteria, mal di pancia, tutto a prurito, mi sono dovuto tutto spogliare perché ero tutto a chiacchia. Figurati, vogliamo più finire. Adesso da dire, gli allospini che c'è lì a cosa, di Mura, quello che c'è a via Milano, lì ti danno la roba se rimane, mi capito, che in scadenza te la regalano, però non la buttano.